cercando nei tuoi occhi ancora per trovare la mia poesia. Sole, mare, amore, stelle per accendere la fantasia. Il brivido di un'onda poi mi porta via. Sentire la tua voce, poi una musica soltanto mia. Il canto di una sirena mi travolge, poi mi porta via. I sogni di una volta ora sono realtà. Poi suona ancora una voce che poi vola e per noi canterà di un amore che non finirà e di un sole che non tramonterà mai per noi. Sento ancora nel cuore che poi vola la tua voce che mi canterà questo amore che non finirà e di un tempo che si fermerà per noi.